Invece non si sente niente. se non si sente il ticchi non sta funzionando il relè, Lucia. Ci vuole il relè nuovo. Addirittura? Eh beh, come fai a ripararlo? Sono lamelline sottili sottili, non si possono riparare, no? Prendono una ganza, vondù. Ma è claro, ero nella galleria artificiale qua, non ti ho sentito. Cappa, ti ho detto che quando non aggancia... Quando non aggancia è il relè, capito? Capi. E quindi bisogna smontarlo e metterlo nuovo. Eh sì, Lucia. Questi lavoretti chi li potrebbe fare? Passa, se non c'è nessuno che li fa, Lucia. Siamo un'isola di handicappati. Gappa Rogero. Allora bisogna che il buon Luigi si rimbocchi le maniche e lo fa. Quando senti a Massimiliano prova a chiederlo, che lui è più pratico, se c'è qualche suo amico, capito? Adesso lui c'ha degli amici su che fanno questi lavori. Gappa Rogero, lo vediamo. E beh, non è ora di pranzo. Cosa, Lucia? Detto, è ora di preparare, apparecchiare o no? Sì, ancora no. Allora io sono entrato adesso, mi dal QRL. Della Olbia, quindi sino a 9:30 non si mangia qua. Ah, eri fuori zona, ho capito. Io sto tornando. C'è un re che uscite dal trono. C'è un re. Ciao G, buongiorno. Buongiorno, e all'Urgia, che si dice? All'Urgia, già siamo qua, quindi sono rientrato adesso. In attesa del pranzo stavo provando questa radio che ho preso stamattina, a vedere se funziona bene. Funziona benissimo alla grande come l'altra, dai. Sì, va bene, va benissimo. Quindi il radio, poi mamma. Lo so, sono radio vita, solo questa è bellina, eh. Questa è bellina, adesso ti mando la foto. Figlia Lucia, sono qua. Sto uscendo bene, no, oggi? Come radio, come l'altra? Non mi è arrivato niente. E ti ha già mandato là, ho detto se sto uscendo bene come l'altra. Ah, sì, è la furia. Ma la radio allucinante su coso. Ah, eccolo qua, riesci a vedere. Il Captain, ma è vecchiotto. Non so di che anno sei tu. Io avevo 9 anni. Questa è del 1968. Ma è nuova. Ah, che brutta. Radio Vintage. Radio Vintage del 1968 è questa. Ma funziona da Dio, eh. Funziona molto bene. Ormai da ogni commutatore di canali che va. Ma questi tre. Allora c'è lo smitter, poi c'è. Cos'è questo refout? Ah, il tore. Sì, il tipo modulometro, ma devo mettere lampadine perché è accesa solo quella di centro. Devo mettere due lampadinette. Domani le compro, non ha giù, capito? Adesso non ne ho voglia di uscire, non ne ho di quelle così, perché sono a innesto, capito? Non sono di quelle normali a filo. Ehi. Ah, è il numero 10, illuminato. Ehi, andiamo bene, vai. Devo prenderne altre, invece erano i mutoni di garage, proprio senza manopole, tutti fasciati, tutti, no, non ne voglio mondezza io. Questa ho visto, la nuova, e via, l'ho presa, vai. Beh, tu mi hai pigliato i negozi. A Olbia. Ma c'è un negozio, cosa c'è? Un amico di un amico, beh, c'ha un po' di... aveva, ma non ha più. Un po' di radio vecchie, vintage, le abbiamo portate via tutte, eh. Io ho preso questa, un altro, uno di Santiodoro ha preso quelle due, ha detto se le metteva a posto, ma non mi piace. Io le voglio nuove, le voglio in ordine, non aggiudità a pintarmi, a fare, non ne ho tempo. Ho capito. Gappa di gappa. Allora già bene, ma hai dovuto fare le connessioni del microfono? No, connessioni sono uguali, sto usando sempre l'MB più 5. Dai, io vorrei piantarmi di nuovo per farlo funzionare, il come si chiama? Galaxy. Per me metterci un microfono, per metterci il microfono amplificato ce l'ho, però non riesco a farmi i contatti. Tra le balle ci sono i contatti. Io Viano vi vengo, figurati, a me me li fanno sempre. Vediamo dove è arrivato Luciano. Luciano, dove sei? Ah, stai andando quindi, ti stai allontanando da Sassari. Va bene, allora ti saluto prima che ti perdo, Luciano. Visto che sei liscio, ancora ti ascolto, ma fra un po' ti perdo. Un abbraccio e ci sentiamo dopo, ok? Ciao Luciano, buona carica anche a te, alle prossimine. Natalie. Ecco Luciano. Luciano Gatramina, trasporto Gatrame. Ah, ho capito. Con Sanna l'altro. Ma è conto suo. È conto suo, c'è il camion suo e viaggia per i cacchi suoi, dritto. Dove lo chiamano, che c'è da buttare asfalto, lui carica e scarica. Natalie. Sono già mandato la radio a Natalino, Marco Gargato, Marcas, Giulio. Claudio, guarda che Natalino in cucina che sta facendo cosa. Ah, va bene Conce, d'accordo, vai. Pensavo che non mi avesse sentito. D'accordo, lascialo fare allora, vai, a dopo. Ok, a dopo. K di Rogero, K di Rosmetro. Allora, devo vedere qua però, cos'è il tuo, cos'è il tuo? Cos'è questa cosa? Vox, mix, aspetta un attimo. Giurre, giurre! Bello, carie. Aspetti, mando una foto a vedere se, se ti piace, che ho preso un altro vintage. Come mi stai ascoltando intanto? Sì, a chiamarla, Cla. Va bene, mi stai ascoltando? Sì, Cla, sono appena rientrato, aspetta, aspetta. Le ho cambiate lampadine, ma non ce le ho così, che sono di quelle a innesto. E ce n'è una sola accesa di strumento, ne ha tre verdi, tutta verde, molto bella. Ciao, posizione 10 watt HI, adesso sono in HI e sta dando 20 watt, cazzo, invece così 10 watt. Va bene, va bene. Ehi, buongiorno. Aspetta, prova. 9, radio 5. Anche a te fatto la sola. KK. Vabbè, si poteva fare assieme. Anche domani. Io dice nuovamente sto cacchio di vento. Io vabbè non c'ero stamattina, ero Olbia, però sono entrato a mezzogiorno. Ok, va bene, va bene. Ascolta, sei liscio quindi? Ho capito, e stai arrivando bene. Penso che ti senta anche Luca, non lo so. Luca Rie, hai finito di mettere a posto la spesa? Te lo so, Angeli, è un casino. È un casino. Io sono incasinato, ho perso lo stesso la mattina, quindi. Però questa settimana ce la piacevamo, dai. Hai voluto fare da solo. Se è andato tutto bene, va bene, dai. KK, già va bene, dai. Luca Rie. Ehi, te lo do con l'HF per il segnale, vai. Passo con l'HF, vediamo. Appena appena è aumentato, 9,5. Di stazionario c'hai? Neanche uno, tra le 1 e le 1, proprio basso, basso, attaccato. E vedi, va bene allora. Già va bene. Bravo, bravo, andiamo bene, io per il fuoco questa roba qua. Ehi, beh, io ho ricommutato al baracchino, già va bene, già va bene. Ottimo, ottimo segnale, Angeli, ottimo. Bene, dai, sono contento, sono tutto contento, dai, che comunque mi dà male il tempo, se sei male, sono tranquillo, se tutto si va a fare. Ce la fare, dando per domani, sono incagliato, sono sotto maleggiante, forse devo fare un lavorettino con un amico. Ehi, vai, va bene, si è risolto, non ci creiamo problemi, già va bene. Volevo vedere se ti ascoltava Luca, ma Luca non c'è. Quindi la ricezione va bene, a me mi stai ascoltando bene. Ciao, 9:15. Ehi, ehi, va bene, va bene. Ottimo per la truppa, dai. Tu sei lo stesso a posto, già va bene. Ciao, ma no, sono contentissimo. Contentamente che sto bene in quelli. Andiamo bene, dai, adesso vado a caricare il rientro alle 5, non c'è problema. Va bene, sono qua. Ciao, ciao Angeli, non c'è problema, te l'ho detto, anche domani si poteva fare, oggi c'è vento, ma io poi stamattina non c'ero, per quello te l'ho detto. Va bene, d'accordo, non c'è problema, già siamo qua. Attento, dollaro. Giulio. E chi è? Dammi il controllo, Fla, per favore. 9, quasi 20, radio 5, Tony. La rete è pulita, buona? Sì, pulitissima. Meglio di quello che c'è con l'altro microfono? Ma, sai che no, non ti posso dire sì e no, questa è bella, l'altra ce l'hai da farmi sentire. E adesso mi viene male, devo fare un casino, ho tutto staccato qua. E ho staccato anche lo spinotto, prima che lo spinotto devo fare tutto a capo, no, lo lascio così, dai. All'inizio stasera posso mettere il tale del P3B da tavolo, dai, ti attacco. Ehi, ehi, questa qua è l'altra, quella che è arrivata? Yes. Va bene, microfono normale? Ehi, yeah. Alla grande, ottima, ottima. Ottima come radio, 5 è perfetta, Tony. L'importante è che arrivo, dai. E auguro che arrivi, se non ti ascolto io chi ti ascolta? Eh beh, tu sei sul cucuzzo. Io sono disperso in campagna. Sì, ma già arrivi bene, te l'ho detto, arrivi benissimo. Arrivi molto meglio di qualcuno che è in città. Addirittura. Eh sì, io le cose dico in faccia. Oh, tu pensa che il capo non ci arrivava, là. Ho messo un barilotto, 2 PL, ho fatto una prolunga stazionaria 1-1. No, Tony, ma guarda, il barilotto è un connettore d'innesto, quindi è... non te ne dà stazionario il barilotto, assolutamente. È chiaro che c'è il cavo fuori, poi va vulcanizzato bene, perché poi magari può entrare acqua nei connettori, però il barilotto è un connettore per innestare i cavi ed è nato per quello, non è la stazionaria. Ma in effetti ho provato prima col tester, tutto a posto, sì, ho messo l'acqua vulcanizzante perché quello non mi manca mai. L'ho messo anche nell'antenna, l'ho messo anche, diciamo, nei dadi dove blocca il tubo telescopico, gli ho messo il silicone, poi è andato tra un tubo e l'altro, poi l'ho messo anche in acqua vulcanizzata. Là, ho fatto un lavoro che se piove mi manca, non mi fa niente. Ecco, così bisogna fare allora. Non bisogna fare i travagli a culo di scimmia, bisogna fare i lavori fatti bene, perché poi se piove, cazzo, devi di nuovo scendere l'antenna, fare un casino, invece così è montata e no, non ti crea problemi. E tanto è vero, in punta al palo le ho messo un sacco di detersivo che ci andava bene, io l'ho lanciato vulcanizzante e lei ma non c'entra mai dentro un tubo. Ma infatti, quello è un ottimo sistema, riempito di silicone, butto il dappo e acqua non entra nessuna parte, Tony. Ho fatto il lavoro come dia comanda, dai. Ma detto fretta non ne ho. Avevo un prossimo due tra 2 settimane, non me ne funziona. Con calma che l'ho fatto. Però ho fatto il lavoro che mi dura. Certo, le cose fatte in fretta sono cose sempre fatte male. Bisogna ragionare, bisogna cercare di fare il meglio, perché altrimenti è un casino, cappa. E via, no, ci sono un giorno e frequenza, già lo sai, comunque, molti accorgimenti già adesso. È che non avevo gana prima e quindi, insomma, è una campagna, è aggiustare questo, fai quello, e cerchi di abbellire, fare quella, fare quell'altro, insomma, ti ruba un po' di tempo e te mangio con calma, non lo faccio. E quindi, piano piano, sono andato avanti. Va bene. Ehi, a volte siamo lì che non ne abbiamo voglia, poi ci guardiamo intorno e si fanno le cose, dai, già va bene. Dunque stai arrivando ottimamente bene, la radio è 5, anche se il microfono è normale, però la radio è buona. Ok, ti ringrazio Claudio, anche adesso mi ritiro un po' di attrezzi, mi ritiro e mi preparo qualcosa per carica batteria. Non carica batteria, anche a te, a 3 Corea, ci sentiamo alle prossime, a stasera, ciao Claudio. Ciao Tony, altrettanto contraccambiato, a stasera se coincide, ciao ciao. Meglia, ciao. Dai, io non posso riprendere, te lo sto controllando un telefono, ma che ci sentiamo male stasera. Ciao anche a Tonino. Ciao Lugarie, no, perché Angelino voleva un controllo, vedere se lo sentivi, capito? Ma è andato via adesso. Va bene, l'hai vista quella radio? Questa, Emmy, sto provando questa qua, non va bene? Signora radio, bella, sì, bella. Però ti sembra di tornare vintage. Sto prendendo di nuovo a fanculo, metto l'altra base, ma è piatto. A No, questa già funziona bene, eh. Questa non ce l'hanno in pochi, è del 1968. Però funziona bene, eh. Senti che bella radio che ha. Oh, fermo, si cazzo 68, una due. Io ce l'avevo 9 anni. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ok? A dopo, ciao. Yeah, ciao, buon pranzo. Attento, per un pugno di dollari. Dollaro. Chi è? Avanti, chi è? E se becchi non parli però. Avanti, Sassari ti ascolta, cambio. E allora, non so cosa dirti. Ciao.